Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Luca Mazzoleni, Arval e la cosmetica di famiglia, di Alessandra Scaglioni. Luca Mazzoleni ha 34 anni, è alla guida dal 2007 di Arval, azienda che produce e distribuisce cosmetici. Ha una sede gestionale in Italia e un laboratorio di produzione in Svizzera. Ed è stata fondata nel 1955 dal suocero Virgilio Vitali, medico dermatologo. Ha fondato tutto in Italia, diciamo che approfittandone del fatto di avere queste conoscenze comunque importanti da un punto di vista medico, e ha fatto quello che hanno fatto secondo me poi tutti gli imprenditori di successo: ha trasformato quella che era la sua passione nel suo lavoro, quindi ha iniziato a formulare, a creare delle formule per appunto delle specialità cosmetiche, ha fatto come tutti gli imprenditori che non avevano alle spalle un patrimonio da poter usufruire, ha chiesto dei finanziamenti, li ha ottenuti tramite le banche, ha comprato uno stabilimento, ha iniziato a comprare macchinari per fare le creme, le ha formulate lui. E se oggigiorno io posso dire che ci sono delle creme che sono sempre le stesse, chiaramente aggiornate da un punto di vista di cosmetico vigilanza o di riformulazioni per via delle materie prime, però concettualmente, fondamentalmente sempre le stesse, e ancora oggi vendono a 55 anni di distanza sempre gli stessi volumi. È una magia che è stata creata dalla persona che ha creato tutta l'Arval. Ecco, finché c'è stato lui, Arval si identificava totalmente con questa persona. Virgilio Vitali muore nel 2000 quando la figlia è molto giovane. Non c'è una successione, ma la moglie Annalisa decide di non vendere. Non c'era una persona della famiglia pronta a prendere il comando di un'azienda che, in quanto familiare, ha il bene e il male di un'azienda familiare fondamentalmente, quindi molto centrata sulla persona. Peraltro la figlia, che ha la passione e l'amore per l'azienda ma al 100%, però non si è mai sentita di voler entrare o prendere le redini della società. La moglie invece ha voluto proseguire, fortunatamente non ha voluto vendere questa società, che ha fatto la cosa migliore che poteva fare al momento, e ha messo un pool di manager, quindi uno amministrativo, uno commerciale, uno marketing, è stata così suggerita anche da persone di esperienza e di fiducia, che hanno traghettato questa società poi, diciamo, fino al mio arrivo. Detto questo, in quegli anni in verità la società di certo non è stata sostenuta, non è stata aiutata, i manager che si sono succeduti non hanno portato quel valore aggiunto, probabilmente nemmeno per colpa loro, probabilmente proprio perché quando una società è familiare deve seguire un certo percorso, non può essere strutturata come una multinazionale, se non lo è, secondo me. Poi le persone, chi cura le proprie cose non le cura mai come si curano le cose degli altri. Nello stesso periodo Luca Mazzoleni stava iniziando a gestire l'azienda della sua famiglia, un'azienda di costruzioni assieme al fratello. Anche per la sua società, come per quella della moglie, quasi nello stesso periodo era venuta a mancare una guida. La mia storia è veramente molto singolare in verità, perché proprio in quegli anni, anzi l'anno prima, mancava il mio di papà. Noi di famiglia abbiamo un'altra attività imprenditoriale che è quella delle costruzioni, quindi piccolissimi imprenditori da un punto di vista immobiliare, e proprio l'anno prima, quindi anch'io giovanissimo, è mancato il mio papà e mi sono trovato onestamente a dover gestire insieme al mio fratello maggiore di qualche anno dei cantieri veri e propri in fase di costruzione, motivo per cui quando anche l'anno dopo è mancato anche il papà di mia moglie, ci siamo trovati in un momento sicuramente di enorme difficoltà gestionale delle due imprese. Superato questo momento, grazie anche all'unità della famiglia, alle capacità, a un po' di fortuna, finché nel 2007 fondamentalmente l'Annalisa, che poi è la mamma di mia moglie, no? Mia suocera, mi ha chiesto se avevo voglia di iniziare a dare un'occhiata all'azienda, che sicuramente non stava passando il suo periodo migliore, perché il mercato della profumeria è abbastanza in crisi da anni per una serie di motivi tutti legati tra di loro. E alla Arval Luca Mazzoleni decide di restare. Piano piano mi sono affezionato, ho dovuto chiaramente studiare, capire, imparare i meccanismi di un lavoro completamente differente da quello che avevo a mia volta dovuto imparare 10 anni prima, quando era mancato il mio papà. Quindi diciamo che se qualcosa di buono poi verrà o sta venendo da tutto questo, è sicuramente grazie a un mio spirito di adattamento importante e alla passione, guardi, perché credo che fondamentalmente cos'è Arval oggi, cos'è stata, perché ha avuto un passato molto importante e crediamo che abbia un importante presente e siamo sicuri in un futuro, ma tutto deriva dal fatto della passione. Oggi Arval sta investendo. È un'azienda che fattura 10 milioni di euro e tiene in mano tutta la filiera del prodotto. E siamo veramente tra i pochi, siamo veramente tra i pochi che possono dire di avere la supply chain completa dalla produzione alla distribuzione del prodotto di cosmetica. Le dico, noi in Svizzera lo facciamo per importantissimi marchi, poi chiaramente, come ci sono laboratori specializzati che lo fanno per altri, che sono fondamentalmente solo un grandissimo, hanno delle ottime creme anche loro evidentemente, però sono un marchio che si appoggia a terzisti, noi ci appoggiamo sempre a noi stessi e l'avere la verticalizzazione del processo produttivo non è un risparmio, però un valore aggiunto in qualità. L'azienda ha fatto alcune scelte precise dal punto di vista della distribuzione. Si rivolge al mercato tradizionale delle profumerie e non alla grande distribuzione o alle catene. Sono realisticamente certo che con una selezione anche del cliente, quindi poter agire solo nei confronti di clienti che ben combacino col nostro spirito aziendale, quindi fondamentalmente famiglie ben radicate e solide nel loro contesto, si possa fare molto. Noi non serviamo volontariamente le catene che sono presenti sul territorio nazionale italiano, quelle gestite fondamentalmente da fondi o fondi di fondi o fondi di fondi di fondi di fondi e poi che fanno un lavoro principalmente commerciale di sconto sul prodotto, di buon assortimento, però non permettono ad aziende piccole come la nostra di fare un lavoro di qualità. Invece il mercato tradizionale ci può premiare in questo, quindi ci può permettere di fare formazione sul nostro prodotto, di far capire le valenze e poi ci dà anche un respiro differente a livello anche di condizioni economiche, perché no, di garanzia che il nostro prodotto rimanga posizionato in una certa maniera e mantenga il valore che deve avere, pur potendo poi far del margine al nostro concessionario. I passaggi per arrivare al prodotto finito sono parecchi. Chiaramente abbiamo un ufficio marketing, le idee nascono proprio stando sul mercato, perché la verità è che a tavolino nasce tutto, ma non nasce niente in verità. Stando sul mercato si respira se c'è bisogno di qualcosa, cosa si può inventare. Detto questo, l'idea del marketing viene trasformata banalmente in fogli di carta, progetti, studio di competitor, analisi di mercato, se c'è qualcosa analogo a quello che vogliamo fare, viene mandato proprio un vero e proprio brief a Sion, dove c'è la nostra ricerca e sviluppo. Lì abbiamo delle formulatrici, una direttrice R&D e lì vengono fatte varie formulazioni e ci vengono riproposte a Milano. A quel punto, se ce n'è qualcuna che corrisponde alle nostre esigenze o a quello che vogliamo fare, da lì parte un percorso che dura più di un anno e non si creda, perché la crema prima di tutto deve essere stabile, dopodiché viene messa in compatibilità col prodotto, perché alle volte scegliamo il vetro, alle volte scegliamo la plastica, alle volte scegliamo il contenitore proprio della crema. Dopodiché passa tutta la parte di acquisto del materiale, dalle materie prime, si immagini, la carta per fare l'astuccio, viene composto tutto il prodotto e dopodiché viene costruita l'operazione marketing al contorno, dopodiché la commercializziamo, la presentiamo ai nostri agenti che poi la vanno a commercializzare ai nostri concessionari. Gli anni della crisi, che ha toccato anche questo settore, non hanno avuto ripercussioni sul fatturato. Io credo una cosa, per quanto ogni crisi non sia da augurarsi a nessuno, poi a un momento sembra veramente che ogni giorno che ci si giri c'è un problema, gli ultimi avvenimenti sono sembra l'apocalisse certi giorni e si ripercuoteranno inevitabilmente anche sul nostro paese, perché magari non su Arval, però sul nostro paese, quindi indirettamente su tutti. Io sono solito dire che in momenti di crisi le aziende migliori sono le aziende che hanno più opportunità. Se poi hanno la fortuna di avere una capacità di investimento e una lungimiranza, sono quelle che possono crescere meglio, perché allora quando tutti tagliano gli investimenti, allora lì forse si vede di più la valenza del rapporto investimento, ciò che l'azienda può dare, ciò che l'azienda può fare davvero per il nostro concessionario, quindi il nostro cliente. Noi la crisi l'abbiamo sentita come tutti evidentemente, non ho avuto un calo di fatturato, anzi in verità io sto avendo delle crescite sopra la media del mercato. È vero anche che sto investendo in maniera importante, quindi è la storia di un'azienda che cresce molto, che ha fatto una scelta di selettività anche del cliente, quindi con meno clienti io sto crescendo a livello di notorietà, anche a livello di fatturato, anche abbondantemente sopra la media del mercato. È vero che ho attuato una politica di investimento. Il modo di guardare al mercato è quello di molte altre piccole e medie imprese. È un po' il tessuto, no, del nostro paese in questo momento, forse anche quello che a livello sociale rispetto ad altri un po' la più preservata. impattato da una crisi comunque fortissima. Da qua poi mi verrebbero tanti pensieri su come si potrebbero aiutare le imprese che hanno dipendenti, che investono sui dipendenti, perché guardandosi in altri paesi ci sono incentivi più importanti e aiuti che vengono dati, però... Il mercato di riferimento, anche in prospettiva, è quello italiano, dove Arval ha il 95% del fatturato. La produzione della linea per il make-up viene fatta in Italia, mentre per le creme la produzione è interna, nello stabilimento svizzero di Sion, capitale del Vallese. Fondamentalmente abbiamo due società, la società italiana e la società che fa marketing, che commercializza il prodotto, che ha l'amministrazione, ha la logistica, 40 dipendenti più una rete di agenti monomandatari che sono 11 e abbiamo anche un pool di 15 ragazze che sono, noi le chiamiamo le beauty coach, sono coloro che sono una figura spesso frequente nel mercato della profumeria, sono delle ragazze che sono da noi formate quotidianamente, le formiamo almeno 4 volte l'anno sui nostri prodotti, sono delle vere e proprie insegnanti di come si utilizza il prodotto, di a chi deve essere venduto, che poi vanno durante l'anno all'interno dei nostri concessionari a spiegare a loro volta le commesse dei nostri concessionari, le caratteristiche del nostro prodotto, piuttosto che a farlo provare alle persone che entrano dentro il negozio. L'organizzazione della struttura è quella di molte aziende italiane di questo genere, dove l'imprenditore ha un ruolo fondamentale e una presenza costante. È lui che tiene il contatto con i clienti, che li incontra. E in questo caso la famiglia di Luca Mazzoleni si è organizzata con una divisione dei compiti. Siamo organizzati che mia moglie, che è una santa, devo mettere una santa, cura la parte più importante della nostra vita, che è la famiglia, non è l'impresa. Quindi mentre io la trascuro necessariamente e tento di dare la qualità rispetto alla quantità, mia moglie davvero cura i nostri due, abbiamo due bimbi piccoli ed è lei che quotidianamente se ne prende cura. Conti che io sono veramente tanto assente da casa. Mia moglie cura la parte più importante della nostra vita, che è la famiglia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.